anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. È importantissimo andare a manifestare sabato a Macerata, innanzitutto per non far vincere la paura e per impedire che la paura prevalga sulla risposta antifascista, che deve essere netta, decisa e determinata in questa fase, perché i fatti che sono successi sono gravissimi. Ed è gravissimo che vengano messi sullo stesso piano i presidi, le risposte e le manifestazioni antifasciste, i presidi di democrazia a difesa della libertà e delle libertà democratiche, con le manifestazioni fasciste. Quindi che si metta sullo stesso piano il fascismo e l'antifascismo è una cosa vergognosa e a cui bisogna dare una risposta netta, di massa, il più possibile partecipata, per non far prevalere la paura e per far vincere la pratica di democrazia e di civiltà. Per questo sabato è fondamentale essere in tanti a Macerata, e più sarà partecipata e di massa la risposta antifascista e più ne gioverà il sistema democratico, a partire dal fatto che non è tollerabile al giorno d'oggi che bande di fascisti o singoli fascisti vadano in giro a terrorizzare la gente oppure possano sparare impunemente sugli immigrati. Ecco, deve finire tutto questo, deve finire questo terrorismo nei confronti degli immigrati. Questo lo si può fare solo attraverso una grande e ampia risposta antifascista. Quindi sabato è fondamentale essere in tanti. Trovo gravissimo che sia stata annullata la manifestazione antifascista a Macerata, ma soprattutto trovo gravissimo che non si tenga il punto della questione. La questione è che qui si tratta di fascismo e quindi bisogna assolutamente dichiararsi antifascisti. Trovo anche le posizioni del sindaco così deboli e anche così patetiche nel giustificare questo desiderio, che poi è diventato un ordine per cui la manifestazione adesso è vietata. Io penso che la comunità maceratese, così come tutti noi italiane e italiani, avremmo dovuto essere lì, italiane e italiani che siamo nati qui o che siamo qui di passaggio, siamo tutti italiani e italiane e siamo tutti antifascisti e antifasciste. Trovo assolutamente vergognoso che ancora una volta si passi sopra il corpo delle donne, perché questa azione assolutamente ha fatto vedere come sul corpo delle donne si possa dire questo ha sparato perché si è voluto vendicare. Ancora una volta si mistificano i significati delle azioni azioni. E quindi io sono profondamente indignata e anche molto molto preoccupata. Pochi giorni fa abbiamo commemorato la giornata della memoria e io come donna e come lesbica dico che siamo molto attenti e soprattutto reagiamo e siamo attivi e siamo antifascisti, perché questi spari e queste non reazioni e questo, come dire, ridurre il valore dell'antifascismo, che non è un'opinione, ma l'antifascismo deve essere nel nostro DNA, deve essere dentro di noi, deve essere nella pratica quotidiana della nostra vita. Questi spari io li sento addosso, e quindi io penso che tutti i partiti, ma soprattutto questa cosa di Ampi, di CGIL, di ARCI, di ritirare la partecipazione alla manifestazione ancor prima che fosse vietata, è una cosa veramente vergognosa. Di Carlo Balestri, Mondiale Antinazisti, che rispetto alla situazione in Macerata e la sospensione della manifestazione di sabato, trovo allucinante questo tipo di decisione. Si mette sullo stesso piano le iniziative, le manifestazioni di fascisti di Casa Pound e di Forza Nuova rispetto alla giusta indignazione e protesta che parte dal basso, dal cuore di migliaia di persone che vogliono manifestare rispetto a quell'attentato razzista e fascista che c'è stato in questi giorni a Macerata. Mi sembra allucinante una posizione di questo tipo. Il mio sospetto è che ci abbia dei fini strumentali ed elettorali, proprio a ridosso di una manifestazione elettorale, quella del 4 marzo, forse guardando anche i sondaggi, qualcuno dall'alto del partito del sindaco gli ha consigliato di evitare ulteriori problemi nella città. Questo è ancora peggio. Credo che, insomma, rispetto a questo, non solo indignarsi, ma bisogna mobilitarsi. L'antifascismo è un valore non negoziabile e di fronte al fascismo non si può arretrare, non ci si può fermare. Quindi sabato bisogna andare a Macerata a riaffermare che questa nostra povera Repubblica è fondata sull'antifascismo e che non passeranno. Le stesse associazioni che ci hanno insegnato che l'antifascismo è militanza attiva, è cosa di tutti i giorni, è conquista del presente e non testimonianza del passato, quelle stesse associazioni ora, nonostante il periodo di urgenza democratica, proprio per la tenuta stessa della struttura democratica del paese, quelle stesse associazioni ora ci dicono di stare a casa. E a fare cosa a casa? A spolverare gli eroi santini del Novecento, gli stessi che vomiterebbero se solo vedessero un dietrofront così clamoroso e così patetico, ingiustificabile da ogni punto di vista che lo si voglia vedere. Questo è l'ultimo gong della campana, non ci saranno altre possibilità: o si scende in piazza adesso oppure poi sarà troppo tardi, le piazze verranno chiuse, si bastoneranno tutti quanti. Io credo che noi, come collettivo di educatori uniti contro i tagli, collettivo antifascista, antirazzista, non possiamo che invitare tutti a scendere in piazza sabato a Macerata e poi in tutte le piazze d'Italia, e a tenere alto la vigilanza, mai come oggi, la vigilanza democratica, perché il rigurgito fascista che c'è nel paese è pericolosissimo e sottovalutarlo sarebbe un errore incredibile. Per cui tutti insieme, avanti, avanti, avanti. Semplificando molto, si potrebbe dire che Primo Levi ci lascia nel capitolo La zona grigia dell'ultimo libro libro che ha scritto, I sommersi e i salvati, tutto il cuore e lo snodo politico del suo pensiero. In questo capitolo lui racconta la vicenda umana, politica e morale di Chaim Mordechai Rumkomsky, che era il presidente ebreo del ghetto di Lodz, un autocrate e complice del nazismo. Un personaggio che Levi assume come simbolo per farci riflettere appunto sulla zona grigia. In realtà abbiamo travisato questo concetto non poco, perché abbiamo sempre pensato che la zona grigia fosse quella in cui campeggiano le persone che hanno abbandonato il nero. E invece Primo Levi ci mette in guardia, perché la zona grigia è quella delle persone che hanno abbandonato il bianco e si stanno lentamente avviando verso il nero. Lui conclude il capitolo con una riflessione che credo che rispetto ai fatti di Macerata sia veramente rilevante, e quindi qui la lascio come la mia ragione perché essere a Macerata sabato è importante. Come Rumkomsky, anche noi siamo così abbagliati dal potere e dal prestigio da dimenticare la nostra fragilità essenziale. Col potere veniamo a patti, volentieri o no, dimenticando che nel ghetto siamo tutti, che il ghetto è cintato, che fuori dal recinto stanno i signori della morte e che poco lontano aspetta il treno. Bisogna essere e andare a Macerata, bisogna organizzarsi, perché Macerata è simbolico di chi vuole appiattire il dibattito, di chi vuole mettere fascismo e antifascismo sullo stesso piano, di chi dice che fascismo e antifascismo sono due facce della stessa medaglia e che sono ormai un fatto meramente storico che non ha più senso d'essere. Quando il sindaco di Macerata chiede di non manifestare, quando il ministro Minniti dice apprezzo che delle associazioni nazionali, che per inciso non avevano organizzato la manifestazione, ma questo ormai pare sia secondario, dicono la manifestazione non si fa, bene, e il ministro dice io apprezzo questa decisione, per poi aggiungere comunque sappiate che se qualcuno volesse fare una manifestazione io la vieto e la vieterò, si sta dicendo che fascismo e antifascismo sono sullo stesso piano, e invece no, fascismo e antifascismo non lo sono sullo stesso piano, non lo sono per la nostra Costituzione, non lo sono per la nostra cultura. Hanno provato in questi anni, negli ultimi ormai 20 anni, hanno provato a farci credere questa cosa, bisogna reagire a questo, ed essere a Macerata vuol dire rivendicare il ruolo degli antifascisti in Italia, per quello che è stato il ruolo di ieri, ma per quello che deve essere oggi e che sarà domani. In Italia c'è un pericolo fascista? Certo, non nel fascismo storico, non nel fascismo inteso storicamente, però sì, c'è un pericolo fascista, c'è un pericolo culturale, hanno già vinto loro da un certo punto di vista, basta guardare le dichiarazioni di Minniti alla stampa. Bene, allora proprio perché noi vogliamo provare a resistere a questa cultura di massa, diciamo che bisogna essere a Macerata. Partecipare alla manifestazione di Macerata il 10 febbraio è non solo importantissimo, ma fondamentale in questo momento per dare un segno e per ribadire, visto che purtroppo è necessario, un concetto che è fondante della nostra società, della nostra Costituzione e del nostro essere comunità. Sono anche convinta che non solo la società civile e le associazioni dovrebbero essere presenti, ma anche chiunque ricopra un ruolo istituzionale, sia uscente che candidato entrante, un po' come avvenne a seguito delle stragi che videro la morte di Falcone e Borsellino, in cui sia la popolazione che le istituzioni si sono ritrovate a Palermo in una grande manifestazione per sancire che non c'era spazio per la mafia. Punto. Ecco, oggi bisogna sancire, purtroppo, che non c'è spazio per il fascismo. Nema više mjeseca, nema tebe, nema mene. Moja draga, šta ricevi Messicina, Messicina, ioioi, ioioi, su se sia, su se sia, ioioi, ioioi, sta nevesa, sta provia, Nicoletta, Nicoletta, Nicoletta, Nicoletta, Nicoletta, stato sia. Questa campagna elettorale genera mostri, ma come non potrebbe essere così visto i partecipanti alla campagna elettorale? Sono anni che questi partiti fanno la propria propaganda sull'odio, sull'odio del diverso, sulla violenza, soprattutto violenza verbale, che poi chiaramente viene presa in atto da gente come Traini, ma anche in passato da altri personaggi legati a Casabound, a Forza Nuova e Lega. L'unica cosa che si potrebbe fare, visto il lavarsi le mani dall'antifascismo di PD, Ampi, CGL, sarebbe quella di annullare le elezioni del 4 marzo. Non c'è assolutamente nessuna tenuta democratica per le prossime elezioni. Nelle liste elettorali sono presenti svariati potenziali assassini come Traini. Ci sono partiti che difendono l'operato del Traini e io mi chiedo come sia possibile che gente che fomenta, supporta anche azioni del genere possano in qualche maniera far parte del dibattito democratico e costituzionale del paese. Le elezioni del 4 marzo probabilmente sono più grave attacco alla democrazia che c'è in Italia da molti anni a questa parte. Sarebbero da annullare. No, 4 marzo, annulliamo le elezioni, il prossimo Parlamento sarà il Parlamento più becero e malvagio della storia d'Italia, quindi sarebbe proprio il caso che il 4 marzo le elezioni vengano annullate. La piazza è il luogo dei cittadini, non divide ma unisce, soprattutto se scendono in campo le forze democratiche. È immorale lasciare tante persone che pensano che queste atrocità non debbano più accadere senza una rappresentatività. Trovo grave la decisione dell'Ampi perché la partecipazione politica non dovrebbe essere quello che succede al momento del voto, quella X, ma anche e soprattutto tutto quello che precede e segue il voto. Partecipi scegliendo una precisa parte del campo e l'Ampi con questa decisione si sta schierando e non si sta schierando dalle parti in cui una storica associazione antifascista dovrebbe schierarsi. È importante andare a Macerata per prendere una posizione netta e ferma, per manifestare contro ogni forma di fascismo ma anche contro questa imbarazzante neutralità. Ciao, sono Valerio Renzi, giornalista e antifascista. È importante andare sabato a Macerata, raggiungere in tanti e tanti Macerata, perché in questo momento è importante vedersi, contarsi, tenersi per mano, scambiarsi delle parole dal vivo, trasformare l'indignazione e la rabbia nella forza di cambiare qualcosa. Questo qua non si può fare su Facebook, non si può fare con gli appelli, non si può fare sui giornali, bisogna stare tutti insieme per poterlo fare. Per me andare a Macerata ha una doppia valenza, non semplicemente quella che riguarda la battaglia contro il fascismo e la battaglia contro il razzismo. Andare a Macerata dopo quello che Arcinazionale ha fatto, dopo quello che ha fatto CGL, dopo quello che ha fatto Libera, dopo quello che ha fatto addirittura Ampi, ha un'importanza in più. Io sono presidentessa di un circolo Arci del mio territorio e come circolo Arci ci sbilanceremo completamente contro la direzione nazionale, perché non è possibile, non è assolutamente possibile che di fronte a un atto terroristico, di fronte a il fascismo che torna con le armi in mano, le grandi associazioni nazionali con presidi sul territorio che storicamente hanno combattuto il fascismo si chiudono in casa, non scendono in piazza e lo fanno col beneplacito del Ministero degli Interni. Questo è assolutamente intollerabile. Per questa ragione scendere in piazza Macerata diventa due volte importante. Combattiamo il fascismo, combattiamo il razzismo e combattiamo anche tutti quei giochi politici che quotidianamente non fanno altro che fomentare e buttare benzina sul fuoco, sia quando vengono fatti dalla Lega, da Casa Pound e da Forza Nuova, sia quando vengono fatti dal PD. Sarò a Macerata sabato 10 febbraio, come sono già stata a San Pietro in Casale il 15 giugno. Rivendico il diritto e il dovere di manifestare per la Costituzione e da femminista e antifascista pratico il più appassionato atto d'amore verso la Repubblica e verso la mia terra, dicendo no al fascismo in piazza e ad alta voce. Per quanto riguarda il corteo di sabato prossimo, di due cose sono convinto. La prima è che la manifestazione antifascista convocata a Macerata non sposterà di un millimetro la percezione di quelle persone comuni che vedono nell'immigrato il nemico alle porte e che ne hanno paura, tanto da giustificare o addirittura solidarizzare con chi gli spara. Ed è proprio sulla paura che si basa la forza del fascismo che rialza la testa. Detto questo, quando si convoca una manifestazione antifascista, non la si annulla lasciando la piazza ai fascisti, perché a forza di arretrare ci si trova con le spalle al muro e dopo il muro non c'è più nulla. È una manifestazione che non cambia il segno dei tempi dunque, ma dal punto di vista degli antifascisti serve a ricompattare le fila, a rompere l'isolamento, a riprendersi dallo scoramento di vivere in uno stato pavido che non sa arginare il fascio razzismo avanzante. Ed è un messaggio a tutti quei partiti ipocriti che hanno paura di perdere voti e voltano le spalle alla Costituzione. Quindi per me si fa come a Stalingrado, non un passo indietro. Il fascismo inizia così, diventa tollerabile quello che è intollerabile. Perciò bisogna andare a Macerata a dirlo ad alta voce. Mai più il fascismo. Ho motivo politico e motivo personale per credere che sia importante andare alla manifestazione di Macerata. Quello politico, comune a molti e a molte che andranno, è rifiuto totale di ogni forma di razzismo, di discriminazione etnica, di fascismo. E quello che abbiamo visto a Macerata è un atto di matrice nazista, non un'azione di uno squilibrato a caso. Le risposte date dalla Lega e dalla destra erano immaginabili. Quelle date dal sindaco di Macerata e dal suo partito, il PD, sono state imbarazzanti. La marcia indietro sulla manifestazione fatta dalla CGIL era forse prevedibile. Quella dell'Ampi è stata dolorosa da vedere. In un momento di tale vuoto politico diventa necessario ribadire che siamo ancora antifascisti, figli, nipoti, pronipoti di una resistenza che ci ha dato questa democrazia, anche se ormai è diventata troppo ineguale e imperfetta. Dovremmo imparare a essere, per parafrasare un'organizzazione della destra che tanto piace ai giornalisti, i partigiani del terzo millennio. Le montagne stavolta saranno le città, quartiere per quartiere, contro ogni fascismo. E poi c'è il motivo personale. Io anche sono un'immigrata, immigrata privilegiata perché europea, ma pur sempre immigrata. Agli occhi dei tedeschi, vivo in Germania, gli italiani spesso non sono altro che mafia, sporcizia, spaccio di droga, accoltellamenti per strada, voce sempre troppo alta, litigate in famiglia. Poi c'è la parte dei tedeschi che conosce l'Italia e ne ama la cultura, la musica classica, il cibo, la lingua. Quando giro per strada spero sempre di incontrare i secondi e non i primi. Ma purtroppo nemmeno io posso scegliere. Il razzismo l'ho sentito, in quei quartieri dove l'estrema destra sfiora il 30% dei consensi. C'è un fascismo europeo che dovrebbe preoccuparci tutti, che di volta in volta ha come obiettivo qualcuno più povero, più fragile, più scuro, che sia il nigeriano, l'italiano, lo spagnolo, il siriano, il rumeno. Ognuno proprio sud su cui esercitare violenza. E allora va detto che il nostro problema non sono gli immigrati, il nostro problema siamo noi, la nostra disumanità. Da storici e storiche della redazione di Vallun pensiamo sia veramente importante andare a Macerata per dare la giusta risposta e speriamo anche forte al montante neofascismo. Tra ieri e oggi sono successe un po' di cose che non starò qui a ripetere, ma l'Ampi e la prefettura di Macerata parlano, hanno parlato di responsabilità. Di responsabilità per questa manifestazione che non si dovrebbe fare e probabilmente chissà la vieteranno, ma quando si parla di responsabilità a noi è subito venuto in mente un altro tipo di responsabilità, quella di cui parlava nel 1924 Mussolini dopo l'attentato e dopo l'uccisione di Matteotti. Mussolini parlò apertamente alla Camera e disse, testuali parole, che si prendeva la responsabilità morale e politica dell'uccisione. Allora nel 1924 era troppo tardi, il fascismo era già salito al potere e sappiamo quello che avrebbe fatto in seguito. Speriamo e auspichiamo che in questo caso la storia non si ripeta, quindi è veramente importante andare a Macerata. Perché andare a Macerata sabato? Perché penso che ancora una volta si stia facendo un'operazione di insabbiamento della verità, un'operazione di equidistanza fra opposti estremismi, insomma le stesse cose che i media politici ci hanno venduto per anni per provare ad insabbiare un problema vero, ossia che il fascismo nelle sue vesti istituzionali o non si sta facendo chiaramente strada e quello che è successo è, come dire, chiaramente fascista. Quello che mi fa più paura è l'altro motivo per cui bisogna andarci, è che Minniti e il PD chiamano e le sue succursali rispondono dicendo siamo tutti beatamente a casa, ci andremo da uomini e donne singole. Ecco, io penso che anche questa cosa sia estremamente sbagliata, cioè io penso che piuttosto di dire noi uomini e donne singole, vedo la polemica dell'AMPI, sull'AMPI, ecco, io penso che ognuno dovrebbe problematizzare il contenitore in cui sta, perché anche lì in questo momento preciso sta il problema. Sono Mauro Collina, sono iscritto all'AMPI, vicepresidente della sezione bolognina. Provo in queste ore un grande disagio e devo dire onestamente anche una grande rabbia per quello che sta accadendo, quello che è accaduto a Macerata. Il disagio mi viene dal fatto che l'AMPI nazionale abbia deciso insieme alla ARCI, insieme alla CGL, a Libera, di annullare la manifestazione nazionale che si doveva tenere sabato pomeriggio a Macerata. Credo che sia una scelta sbagliata, credo che questo lasci spazio purtroppo ai fascisti che scorazzano tranquillamente per le strade di quella città e non solo, anche ieri in altri luoghi sono state compiute aggressioni, quindi questo è un po' il clima. Credo che il ricatto da parte del sindaco di Macerata sia un ricatto stupido, la cosa più preoccupante credo sia il ricatto invece che viene portato da parte di un gruppo dirigente del Partito Democratico e del suo ministro degli interni. Le voci che girano sono di divieto da parte del prefetto a manifestare, sabato vedremo che cosa accadrà in quella città, di sicuro in tante saremo a Macerata sabato per dire non un passo indietro, ora e sempre resistenza. È importante andare a Macerata per chi può e per chi riesce, per non lasciare soli gli antifascisti locali, non si può sostenere una manifestazione e poi tirarsi indietro, non possiamo lasciare passare il messaggio che fascismo e antifascismo siano due opinioni, che per non avvelenare il clima devono tacere, una non è un'opinione, è un reato, l'altra non è un'opinione, è il valore fondante della nostra Costituzione. Ciao, sono Martina. Penso che sia giusto essere sabato alla manifestazione a Macerata per dare solidarietà alle vittime di un attentato che è di stampo fascista, per testimoniare l'urgenza dell'antirazzismo e dell'antifascismo di fronte ad episodi che accadono sempre più spesso nelle nostre città, per dimostrare che il maschio bianco che vuole proteggere la donna in nome della patria e del tricolore è soltanto l'ennesima strumentalizzazione del corpo femminile. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzare la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno m'ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà. e dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho. Sono Leonardo Tancredi, operatore sociale, giornalista e antifascista. Quello che è successo sabato scorso a Macerata è un segnale spaventoso di quanto sia concreto il rischio di una deriva fascista nella società italiana. Altrettanto grave è stata l'indifferenza con cui la quasi totalità delle forze politiche nazionali ha provato a fare di tutto per mostrare indifferenza a quanto sia successo. In quel solco le dichiarazioni del sindaco di Macerata, che ha invitato tutti a non partecipare alla manifestazione indetta dal centro sociale Sisma per sabato prossimo. Purtroppo gravissima la decisione di Arci, CGL, Libera di non partecipare alla manifestazione. Ancora più grave il fatto che Ampi si sia allineata. È una decisione che personalmente mi sconcerta, avendo la testa dell'Ampi in tasca. Quindi penso che non ci sia molto altro da fare. È fondamentale essere tantissimi sabato a Macerata, tutte e tutti sabato a Macerata a manifestare contro il fascismo in Italia. Ciao, sono Giorgio. Andrò a Macerata, sì, andrò a Macerata e con la gioia che ho sempre avuto nel manifestare contro ogni fascismo, autoritarismo, razzismo e così via, ma anche con un po' di amarezza nel cuore. Ero ragazzino quando il 25 aprile con i miei compagni di scuola andavamo sotto il monumento al partigiano, dedicato ai partigiani, nella mia cittadina natale di origine. Ci andavamo perché l'Ampi erano in pochi e allora non andava così di moda presenziare queste cose, soprattutto da parte dei giovani. Avrei voluto che questa volta l'Ampi restituisse la stessa attenzione che noi da giovanissimi avevamo posto alla causa antifascista. Quindi con una certa amarezza, ma comunque con la determinazione di sempre nel dire no ad ogni fascismo. Ciao. Io quella storia lì del paese reale finora non l'avevo mai capita. Mi sembrava molto ipocrita, come se potesse esistere un paese irreale. E invece oggi, febbraio 2018, la capisco benissimo, perché conosco il paese surreale. Surreale è il paese che dopo una spedizione fascista discute di immigrazione e non di fascismo. Surreale è il ministro dell'interno quando dice che non bisogna farsi giustizia da soli, ma giustizia di cosa? Mamadou, Jennifer, Gideon, Festus, Wilson, Omar sono o non sono le vittime? Surreali sono i governanti che credono che la pacificazione passi per il silenzio degli antifascisti, mentre intanto i fascisti sfilano nelle strade, entrano nei cortili dei giornali. Surreale è che chi ci governa ci dica che se stiamo in piedi, mano nella mano, a dire no al fascismo, stiamo alimentando la tensione o contravvenendo alle regole. No, il fascismo non è un mostro invincibile, il fascismo va isolato e bisogna dirlo con parole chiare, anche mano nella mano nelle strade. Espatriamoli tutti, sì, i fascisti. Il paese surreale non scende in piazza dopo una spedizione fascista, però quello non è il mio paese. Io sabato andrò a Macerata lo stesso, perché l'obbedienza non è più una virtù, perché non può esserlo quando durante tutta la settimana tua mamma ti chiama alla mattina prima di andare a lavorare e ti dice che ha paura di uscire di casa per il colore della propria pelle, perché è nera, e quindi ha paura che le possa succedere qualcosa, per dire a mia mamma che non è da sola, per dire alla mia famiglia che non è da sola. Io scenderò in piazza sabato a Macerata. Habibi, bisalam. بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية Thank you.